Lettera inviata a Bologna dalla città di Viterbo, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 20 settembre 1547. All'illustrissimo e reverendissimo Giovanni Pietro Carafa. Signore mio onorandissimo, la notizia dell'assassinio del figlio del Papa, Pierluigi Duca di Parma e Piacenza, è giunta fino qua, destando nel servitore della Signoria vostra tristi presagi. Credo infatti siano fondate le voci che attribuiscono al Gonzaga tale misfatto. Del resto, non è difficile inserire questo omicidio nel quadro complesso degli eventi che va prendendo forma. Se si pensa che Ferrante Gonzaga governa Milano per conto dell'imperatore e che da tempo ha mire espansionistiche su Piacenza, non è difficile capire quale losco baratto abbia avuto luogo. L'eliminazione di Pierluigi Farnese avvantaggia il Gonzaga tanto quanto Carlo V, che ne guadagna un'intimidazione gravissima a Sua Santità Paolo III. Credo si tratti dell'avvertimento imperiale in merito ai deboli segnali d'alleanza che Sua Santità ha lanciato al nuovo re francese. Ma Carlo non ha alcuna intenzione di sprecare l'opportunità favorevole che il destino gli ha riservato. In un solo anno sono morti due dei suoi più antichi avversari, lo scismatico Enrico VIII d'Inghilterra e il bellicoso Francesco I di Francia. A questo si aggiunga la vittoria riportata dall'esercito imperiale sulla Lega di Smalcalda, a Mühlberg. I principi protestanti hanno accusato il duro colpo e questo rinvigorisce non poco l'imperatore. Non v'è dunque da stupirsi che anche in Italia l'Asburgo torni all'attacco. Ciò che non ha potuto con la diplomazia al Concilio di Trento potrebbe ottenerlo collocando sul soglio pontificio il proprio candidato papale, ovvero quel Reginaldo Polo che la Signoria vostra preferirebbe vedere allontanato dall'Italia una volta per tutte. Oggi più che mai occorre agire con la dovuta cautela, onde evitare che il danno diventi irreparabile. E vengo infatti a riferire dei più recenti sviluppi in merito al compito assegnatomi dalla Signoria vostra. Grazie alle referenze fornitemi da Vostra Signoria, sono in contatto epistolare con le autorità di polizia e con gli inquisitori di alcune grandi città della penisola. Ho dunque potuto appurare che il raggio d'azione dei distributori del beneficio di Cristo si sta allargando. 10 giorni fa sono state trovate 200 copie del libello a Napoli. È questo il più cospicuo dei 6 sequestri avvenuti finora. In 2 di questi, a coprire il trasporto dei libri, c'erano affari riconducibili alla ricca famiglia sefardita dei Mendesi, del cui coinvolgimento nell'operazione possiamo ormai essere più che certi. Ho ottenuto dalle autorità locali una prima lista di nomi di persone che credo sia meglio sorvegliare a distanza. Simone Infante, nel Regno di Napoli, Alfredo Bonatti, per i Ducati di Mantova, Modena e Parma, Pietro Perna, nel Ducato di Milano, Niccolò Brandani, in Toscana, Francesco Strozzi e Girolamo Donzellini, a Venezia. Si tratta di un fornitore della Corte di Napoli, di un cortigiano favorito dal Duca di Mantova, di un colportore itinerante che scambia libri con gli esuli Basilei, di un membro della cooperazione Laniera di Firenze e di due letterati scappati da Roma. Queste persone ci rivelano molto su quale fruizione il beneficio può avere in Italia. Si tratta di personaggi colti, vicini alle corti dei loro signori e in grado di essere veicolo di idee tra la nobiltà e i membri dei ceti mercantili e artigianali. Pesci piccoli, che possono però diventare pericolosi con il trascorrere del tempo. Il mio consiglio è che, se non è possibile inquisire i potenti Mendesi, potrebbe essere utile cominciare dagli ultimi anelli della catena per far sentire sul collo dei sefarditi l'alito del Santo Uffizio. Non mi resta dire altro se non che attendo ordini dalla Signoria vostra, raccomandandomi alla sua grazia. Di Viterbo, il giorno 20 settembre 1547. Il fedele osservatore di Vostra Signoria, Q.